Intanto il Biografilm è cresciuto a tal punto che è difficile fare una sintesi in cui rappresentare tutto il programma ricco di qualità, di valore e di valori. Valori perché è un festival che si misura con quelle che sono le contraddizioni della società attuale attraverso le storie di individui, di donne e di uomini che vivono nella loro personalità queste storie, ma anche all'interno delle loro comunità e fanno la storia delle loro comunità. Quindi, come sempre, un festival ricco, 83 proposte di film, con 24 opere prime, 74 anteprime nazionali. Le location saranno sempre le stesse, con un'aggiunta: noi abbiamo le sale del Lumière, il cinema Arlecchino, il cinema Medica e il chiostro di Santa Cristina dal 9 al 19 di giugno, ma saremo presenti anche in piattaforma su My Movies online e su iWonderful. È un festival, dicevo, tanto ricco, è cresciuto molto. Biografilm ormai è un festival, ma non più solo festival, perché ha tante attività che durano tutto l'anno, molte attività educative e didattiche rivolte alle scuole, alle carceri minorili, e questi ragazzi e ragazze che hanno partecipato a questi percorsi saranno protagonisti del festival, perché hanno formato giurie, hanno scelto film e li premieranno con le loro motivazioni e saranno presenti all'interno del festival. Questa è una grande ricchezza di cui noi andiamo molto orgogliosi.